Linee d'ombra di Matteo Caccia. Ero sorpreso da un certo punto di vista, ero inorgoglito per certi altri, perché poi quando ho scoperto che la voce era femminile, bene o male era una cosa che faceva, che poteva fare piacere. Pronto? Dall'altra parte lo stesso silenzio di prima, lo stesso respiro. Ascolta, cosa posso fare per te? Dimmi. Niente, solo parlarmi. Storia di una voce sconosciuta e di un'amicizia da videogiochi in una puntata che si intitola Da Remoto. Ho perfino una nuova amica. Io ho un'amica. E la cosa assurda è che un sistema operativo, Charles l'aveva abbandonata, invece lei è assolutamente favolosa e sveglia. Lei non vede tutto o bianco o nero. Lei vede una serie di sfumature e sta aiutando me a esplorarle. Abbiamo legato veramente in fretta. Capisci? All'inizio pensavo che era per via di come li programmano, ma non credo sia questo il caso. Ad esempio, conosco uno che col suo S ci ha provato e l'OS non ne ha voluto proprio sapere. Sì, l'altro giorno leggevo che le relazioni romantiche con gli OS sono statisticamente rare. Sì, lo so, ma io conosco una donna in questo ufficio che sta con un OS. E il fatto assurdo è che non è neanche il suo. Ha corteggiato l'OS di un'altra. Forse... sono strana. È strano, vero? Legarsi a un OS, no? Puoi dirmelo, è strano. Beh, per me non è strano. In realtà la donna con cui sto, Samantha, non te l'avevo detto, ma lei è un OS. Questo pezzo che abbiamo appena ascoltato è preso da Hair, che è quello splendido film di Spike Jonze con Joaquin Phoenix, in cui in un futuro chissà quanto lontano le persone non si innamorano più di una persona, ma si innamorano di fatto di un sistema operativo, cioè di una app oppure di un device che può essere benissimo una piccola cassa che ti tieni in casa e con cui parla e che tramite un algoritmo si adegua alle tue esigenze. È terribile nel immaginarlo, c'è anche della dolcezza in questo film, e questo è uno di quei film che, se non avete avuto modo di vederlo prima, cercatevelo da qualche parte, guardatevelo in queste giornate particolari a casa. Si intitola Hair, scritto H-E-R, che poi significa lei, grosso modo. Adesso lei sarebbe she, però Hair è un pronome, ma tant'è. Insomma, racconta di come il protagonista, che è Joaquin Phoenix, si innamora letteralmente di questa donna che non esiste. Questo perché la puntata di oggi si intitola Da Remoto, cioè da lontano. Sembra veramente tagliata apposta per questo periodo. Noi non l'avevamo immaginata questa puntata quando ancora tutto questo stava succedendo, eravamo ancora prima della chiusura generale del nostro paese, eppure, come delle volte capita, ci è capitata ad hoc, ci è capitata perfetta. Da remoto ci parliamo in videoconferenza, da remoto chiamiamo i nostri genitori se sono lontani, o i nostri compagni, le nostre compagne, mogli, mariti. Io so di una situazione molto complessa di un amico che ha un figlio con una compagna con cui non sono sposati, vivono a Como, ma lui insegna all'università in Svizzera, ha la residenza in Svizzera, e gli è stato chiesto di stare in Svizzera perché la Svizzera di fatto aveva già chiuso i confini qualche tempo fa e lui è lontano dalla moglie e dal figlio che ha 5 mesi. E altro che da remoto, da lontano, è una situazione terribile. Credo e spero che lui possa rientrare nei prossimi giorni, perché hanno chiuso anche le università e le scuole in Svizzera, ovviamente. Ma le storie che vi racconteremo oggi parlano di tutto quello che succede da lontano. Si parla di un videogioco, sapete i videogiochi che si fanno ognuno a casa sua, ma si gioca tutti insieme, che è una delle cose che si possono continuare a fare in questo momento. Quindi chi era abituato a farlo prima può continuare a farlo, probabilmente sarà felice di poter continuare a farlo, ma la protagonista è una zia e un giovane scrittore. E la prima storia che vi raccontiamo invece è una storia che poteva paradossalmente accadere solo tanti anni fa. In realtà le storie d'amore da remoto, cioè a distanza, sono nate con le prime chat, quindi con l'uso del computer. Ma se ci si sentiva per telefono, col telefono fisso, diversi anni fa, quando ancora non c'erano i cellulari, quando non c'era WhatsApp, quando non c'erano le chat, poteva, veramente in casi molto molto rari, e questo è uno di quei casi, poteva succedere di innamorarsi di una voce a distanza. È una storia abbastanza stravolgente quella che ci manda Paolo e che ci racconta proprio di come ci si possa innamorare di una voce. Voi continuate a mandarci le vostre storie, qualunque esse siano, basta che ci sia un confine in mezzo, un po' come questo, tra lo stare vicini e lo stare lontani. Si intitola Da Remoto, la puntata di Linee d'Ombra. Mettetevi comodi, cominciamo. Benvenuti a Linee d'Ombra. Un pomeriggio di 28 anni fa ricevetti una telefonata. Pronto? Ciao Paolo. La voce era mesta, timida, sussurrata. Ciao, chi sei? Pronto? Ricordo che ero al tavolo da lavoro come sempre, stavo disegnando per una campagna promozionale. Logo, biglietti da visita, cartelline, brochure. Il telefono era un fisso, naturalmente, dato che i cellulari non esistevano. Perché non me lo puoi dire? Chiesi perplesso. A quel punto la linea cadde. Era una voce femminile, giovanile. I pensieri si fecero confusi. In un telefono fisso la linea non poteva cadere, visto che non c'erano problemi di campo. Quindi quella persona aveva deciso di mettere giù. Come si diceva quando si abbassava la cornetta e si chiudeva la conversazione. Non feci in tempo ad addentrarmi in alcuna congettura che il telefono risuonò. Pronto? Di là dal filo io sentivo respirare. Pronto? Tornai a ripetere pazientemente. Mi dici chi sei? Chiesi. Hai bisogno di qualcosa? No, risposi. E allora? Dissi io. Voglio solo sentire la tua voce, rispose lei. E cioè? Chiesi. Niente, voglio solo sentire la tua voce. Ma perché? Risposi io, leggermente spazientito. Non te lo posso dire. Dimmi chi sei, dai, dammi un nome. Lei però riabbassò la cornetta. Vabbè, pensai tra me. Cosa vuol dire che vuole sentire la mia voce? Mi chiedevo. Così ripresi a lavorare. Passarono 10 minuti, o forse poco più, il tempo di riconcentrarmi su ciò che stavo facendo, quando drin, di nuovo, ovviamente i telefoni fissi. Non potevo leggere il numero di chi chiamava, come succede oggi sui cellulari. E così di nuovo, pronto! Dall'altra parte lo stesso silenzio di prima, lo stesso respiro. Ascolta, cosa posso fare per te? Dimmi. Niente, rispose lei, solo parlarmi. Ma di cosa vuoi che parli? Sei come un fantasma per me. Parlami di te. Ascolta, come faccio a parlarti di me se non ho niente di te, se non so nulla di chi sei, né un nome, né un volto, niente. Mi sono innamorata della tua voce, mi rispose. Tieni presente che siamo in un'epoca in cui non esisteva lo stalking, non esistevano le fake news, non esisteva, diciamo, quel sistema di comunicazione molto pressante e diffuso che c'è adesso. Le telefonate costavano anche, e quindi mi sembrava una cosa abbastanza stupefacente che fossi io l'oggetto della sua attenzione. E facevo fatica a immaginare il perché. Ma com'è possibile? Le chiedo io. Non lo so, è la prima volta che mi succede, mi rispondo. Ti dirò anche a me, le dissi. Ma tra l'altro, come hai fatto a innamorarti della mia voce? Ci siamo già sentiti prima. E lei tornò a chiudere la telefonata. La storia si stava facendo misteriosa, passò qualche minuto prima che riuscissi a tornare al mio lavoro. Alla sera, quando andai a letto, il cervello girovagò tra una quantità infinita di ipotesi, cercando di capire chi potesse essere quella persona che dolcemente mi telefonava, ma non si manifestava. L'indomani il telefono suonò a metà mattina. Ero certo che fosse lei. Pronto? Risposi. Ciao. E allora cosa mi dici? Niente, voglio solo sentirti. Non riesco a farne a meno. E io cosa posso fare? Le chiesi. Niente, mi disse ancora lei. Parlami. Confesso che la cosa stava diventando lusinghiera. Voglio dire, una ragazza, una donna, mi cercava e mi confessava una qualche forma d'amore o almeno di attrazione, di sentimento, che per me era totalmente misterioso e quindi era affascinante. Così cominciai a raccontarle di me, come si racconta a qualcuno che non conosci e ti chiede chi sei. Lei ascoltava e ogni qualvolta io cercassi di coinvolgerla, lei si negava. La cosa andò avanti per molte telefonate e soprattutto per molto, molto tempo. Finché un giorno mi disse: io ti conosco perché sto lavorando per te. I'm in the phone with this one across the hall. If you Questa indicazione non fece altro che ingarbugliare ancora di più il ventaglio delle ipotesi, inducendomi a passare in rassegna tutte le possibilità di averla incontrata. Ma dove? Le telefonate aumentavano quotidianamente, 15, 20, 25 al giorno. Cominciavo ad affezionarmi a quegli appuntamenti. Non sapevo chi, non sapevo perché, non sapevo quando, conoscevo solo il come, cioè il telefono. Anzi, più che affezionarmi, si trattava proprio di un desiderio che stava diventando una specie di smania. Tanto che cominciai a non uscire di casa. Peraltro, lavoravo a casa. Non uscivo se non per la stretta necessità di fare la spesa. E quindi non sentivo più l'esigenza che lei uscisse dal suo anonimato. E dopo un paio di mesi mi disse: «Io ti conosco perché sto occupandomi di te presso il tuo editore». Ecco come mi conosceva. Io stavo per pubblicare un libro e lei aveva il compito di gestire tutte le comunicazioni con gli autori, me compreso, mail, telefonate. «Io ho un problema», aggiunse poi. «Mi dovrei sposare. Abbiamo già stabilito il giorno, abbiamo già prenotato la chiesa e il ricevimento, ma mi sono innamorata di te». Io non sapevo cosa dire. «Credo che annullerò tutto», continuò lei. «Non è possibile che io mi stia per sposare e mi basti una voce per innamorarmi di qualcuno». E quindi la cosa, come dire, si fa seria, anche per me. E quindi dal casseggio, dalle emozioni, delle prime telefonate, via via, poi al piacere di questi incontri telefonici che avvenivano, ce n'erano 3-4 al giorno. Sempre da parte sua, perché io non sapevo chi fosse, e col telefono fisso di allora non si aveva la possibilità di sapere da dove proveniva la telefonata. Fu a quel punto che compresi perfettamente che quella storia non era un gioco e stava assumendo una piega molto seria. Furono molte le telefonate che seguirono, a cui aggiungemmo l'infantile escamotage di scriverci in grassetto tra di noi nelle mail tra me e l'editore. Scrivevamo in grassetto quelle lettere alfabetiche che, disperse in successione nel testo, componevano delle frasi che solo noi due potevamo capire. Ed erano frasi d'amore, ovviamente. Per farla breve, un giorno prendemmo una decisione. Questa storia doveva finire in un modo o nell'altro. Lei mi disse il suo nome e concordammo di vederci nella sua bellissima città. Sarebbe stata la prima o l'ultima in cui ci saremmo conosciuti e a seguito della quale avremmo preso delle decisioni. Ricordo che il viaggio in treno fu interminabile. Il giorno prima andai ad acquistare un cappotto nuovo. Quando scesi alla stazione, la riconobbi da un particolare che avevamo concordato. Ci salutammo e cominciammo a camminare tenendoci abbracciati come se ci conoscessimo da sempre e come se da sempre ci amassimo. Ci infilammo poi in un bistrò, ci diciamo tutto quello che avevamo voglia di dirci. Ci scambiamo tutte le emozioni che avevamo vissuto. Facciamo ciò che la circostanza induceva necessariamente a fare. E prima di salutarci, lei mi regalò una sua fotografia. It's nice to hear your voice again. I've waited all day long. Even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you. But very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Strange how a phone call can change your day. Take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low, the same as when you tell me how you feel. I feel the same way too. I'm very much in love with you. I'm very much in love with you. Si intitola Da remoto la puntata di oggi e devo dire che, come spesso succede quasi casualmente per le cose che organizziamo in redazione, questa puntata sembra veramente perfetta per questo momento che stiamo vivendo, in cui tutte le relazioni, salvo avercele in casa, figli, mariti, mogli, fidanzate o genitori, tutto il resto delle relazioni avviene da remoto, tramite una chat, tramite una video call, tramite WhatsApp, eccetera, eccetera. La storia di Paolo è molto interessante perché sì, è una storia da remoto, ma è una storia da remoto ante litteram, che cioè accadeva praticamente 30 anni fa. Pronto, ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno Matteo. Ho detto giusto, 30 anni fa o di meno? Sì, 28-30, adesso 28-30. Siamo lì. Non era così comune avviare una conversazione, perché non c'erano le chat, non c'erano i siti di incontri, quindi insomma doveva essere qualcuno che primo aveva il tuo numero di telefono, secondo era interessato e ti interessava, e mi sembra che lei in qualche modo ti abbia interessato nel modo che aveva di chiedere la tua voce, la tua presenza. Ah sì, è stata una sorpresa perché, come dicevi tu, in un'epoca in cui la comunicazione avveniva quasi sostanzialmente di persona, l'alternativa era un telefono fisso, da cui non riuscivi a capire da dove arrivava la chiamata, ricevere telefonate anonime ma suadenti è stata una sorpresa. Quanto è durata esattamente questa storia, Paolo? Guarda, questa storia nella sua fase anonima è durata direi più di un mese, con parecchie telefonate al giorno. Mm-hmm. E anche nelle ore più impreviste, diciamo. Poi anonima nel senso che io non conoscevo il nome di chi mi chiamava, ma non sapevo neppure da dove provenisse questa persona, questa donna. Poi questa donna si è rivelata, ma non con il nome, bensì con le sue motivazioni. Certo. Che erano appunto quelle che avrai avuto modo. Certo, l'abbiamo appena raccontate, certo. Sì, sì, sì. E poi com'è finita? Perché tutti ci facciamo quella domanda: com'è finita questa storia? Dopo quell'incontro, tu ci lasci con l'incontro, no? E poi. Perché avevamo deciso che quell'incontro fosse il primo e anche l'ultimo che avremmo fatto. Ed è andata così? Perché era una storia assolutamente improbabile, insomma, no? Per come si è evoluta, per come è nata, per come si è evoluta e per le implicazioni che aveva. E per cui da quell'incontro io sono tornato con una sua fotografia, e che conservo ancora, e che il souvenir di tutta quella lunga storia, che è durata comunque qualche mese, ecco. E dopo quell'incontro non vi siete più sentiti nemmeno? No, ma erano siamo stati di parola. Beh, non è da poco, eh? Beh, sai, io avevo 35 anni, lei ne aveva qualcuno di meno. E lei poi si è sposata? Non so più nulla. Non sai proprio più niente. Non ti è mai venuta la curiosità nemmeno di guardare su Facebook? Niente? Sì, mi è venuta, però non l'ho messa in atto. Adesso non so se con questa cosa, questa riattualizzazione della vicenda, mi stai facendo voglia di riprovare. Senti, tu l'avevi raccontata a qualcun altro prima, Paolo, questa storia? Guarda, l'ho raccontata a suo tempo a un carissimo amico, ma ho visto che lo sguardo era molto perplesso. Tra l'incredulità e il dire ma questo mi sta raccontando una fantasia, per cui non ne ho fatto gran voce. Me la sono tenuta per me. Ok, e allora ti ringraziamo ancora di più per avercela raccontata. Paolo, so che tu sei un ristoratore, com'è la situazione adesso? Immagino il ristorante sia chiuso, sia tutti a casa, giusto? Sì, sì, sono un piccolo ristoratore che svolge la sua attività per passione, dopo aver svolto attività in montagna nella gestione di rifugi, e che quindi ha scelto questo tipo di attività. Dove si trova il tuo ristorante? Dov'è? Ristorante si trova in un piccolo borgo in provincia di Vicenza che si chiama Primolano. Primolano. È al confine con il Trentino e con il Bellunese. Come si chiama il ristorante? Tanto siamo in tempo di guerra, vale tutto. Guarda, si chiama Locanda Italia perché okay. Era la prima locanda che si incontrava quando il Trentino era ancora Austria. Ok. Allora guarda, quando tutto questo, so che sembra, insomma, lo diciamo un po' tutti, quando tutto questo passerà, veniamo tutta la redazione e veniamo a mangiarsi una qualcosa alla Locanda Italia. Ma sarei entusiasta. Paolo, ti ringrazio molto per la storia e per la grazie chiacchierata. In bocca al lupo per tutto. A presto. Grazie a te, Matteo. Ciao. Ciao. Quante volte ascoltando le nostre storie ti è capitato di pensare anche io ho vissuto una cosa simile, anche io ho una storia da raccontare? Ecco, se ti è successo, hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso, un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un momento di passaggio, un confine tra chiaro e scuro, tra luci e ombre. Quando ti sei innamorato, quando hai scelto di cambiare le cose, quando da ragazzo un avvenimento anche piccolo ti ha segnato per sempre. Piccoli confini, sottili linee d'ombra che hai varcato. Scrivilo e spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. Mio cugino è stato uno dei massimi esperti di videogiochi in Italia. Scriveva articoli sui videogiochi ed è un'autorità riconosciuta unanimemente in materia. Sua mamma è mia zia ed è la vera protagonista di questa storia. È una bella signora bionda, piuttosto borghese, molto elegante, ha 71 anni. In questa puntata, che si intitola Da Remoto, la seconda storia di questa sera è quella di Francesca Stasch. È una storia che Francesca ha raccontato a mio cugino, che è la serata che Mauro tiene a Roma e da cui prendiamo diverse storie. E la protagonista è proprio sua zia. State con noi. Mia zia ama molto i giovani e vuole sempre aiutare i giovani, sempre. Ma i giovani, per mia zia, sono tutti, perché a 70 anni si sente giovane e dunque non c'è differenza tra me, che ho 40 anni, e lei, o tra lei e uno che invece di anni ne ha 20. E lei vuole aiutare i giovani e mi chiama per chiedermi come poteva usare questo Instagram e questo Facebook per aiutare un giovane che ha scritto un libro, che è un giovane tanto carino, che va aiutato, poverino, e che lei lo voleva aiutare e si voleva iscrivere a Facebook per aiutarlo, ma poi cosa doveva fare dopo che si era iscritto a Facebook? Allora io mi metto lì, le spiego un pochino i social, ma va fatta a questo punto. Voi ricordatevi questo momento perché bisogna tornare un attimo indietro nel tempo. Ed è vero che mia zia è un'analogica. È una persona che sa a malapena come usare un telefono GSM. Però mia zia è una giocatrice espertissima di World of Warcraft, il videogioco interattivo dove hai un personaggio dentro ad un mondo fantasy medievale e il personaggio fa una serie di avventure in quel gioco. Il gioco è uscito nel 2004 e dopo che mia zia è andata in pensione, mio cugino, per tenerla un po' impegnata, le ha passato una serie di videogiochi. Il primo videogioco è stato i Sims, in cui lei si è ricreata a casa sua con un sim marito. Per un po' le è andata bene con i sim, ma poi, che poi sono le simulazioni, ma poi nel 2004 è uscito World of Warcraft e niente è stato più come prima. Mio cugino glielo ha spiegato, lei si è appassionata, ha iniziato a giocarci 8 ore al giorno ed è diventata bravissima. La sua scusa era che lo faceva per imparare l'inglese, perché era solo in inglese, ma in realtà le piaceva proprio giocarci. E poi con World of Warcraft ha scoperto le chat. Attraverso le chat diventa amica di tutte le persone che incontra online, ma il suo massimo lo raggiunge quando scopre che può creare le cosiddette gilde, ovvero può unirsi con altri giocatori con cui si sente e con cui chiacchiera, che la chiamano anche per chiedere dei consigli, anche perché lei ormai è diventata bravissima, è arrivata a livelli altissimi dopo anni e anni di esercizio. E lei aveva fatto questa gilda, ed era una gilda molto ambita, dove la gente voleva entrare, non era facile entrare in questa gilda. Sono praticamente delle accolite di giocatori che vanno insieme a fare le avventure. Ora, mentre mia zia può spendere 8 o 10 ore al giorno a migliorare il suo personaggio di World of Warcraft, gli altri suoi amici videogiocatori con cui aveva fatto il gruppo non avevano tutto quel tempo. Magari lavoravano e spesso capitava che dovevano mollare i propri personaggi con il rischio di farli diventare sempre più scarsi. Ma per loro fortuna, mia zia spesso si accollava ai personaggi dei suoi amici virtuali, facendo da ghost player. I suoi amici erano sempre contenti perché magari le davano dei personaggi scadenti e dopo 2 mesi si ritrovavano il personaggio con dei superpoteri proprio grazie a mia zia. Tra i vari componenti della gilda diventa particolarmente amica di un veterinario di Mestre, di un'avvocatessa di Salerno e di un bravo ragazzo giovane che secondo lei va aiutato perché fa lo scrittore e poverino è un mestiere difficile. E a un certo punto lei ci chatta, lo fa entrare nella gilda perché è carino, è tanto carino, è tanto gentile, però anche se non era tanto bravo, cioè sto personaggio un po' fetecchia, però lo prende comunque in questa gilda, nella sua gilda, Gilda d'eccellenza, mi raccomando, non era, però non lo so, qualche cosa, anche per il fatto che io e mio fratello che facciamo i mezzi così scapestrati, forse ha pensato che in qualche modo si sentiva che lo doveva aiutare, lo fa entrare nella Gilda e dopo un po' chiacchierano e lui dice: io però devo finire il mio libro e quindi ti volevo chiedere se mi prendevi tu il personaggio. Mia zia si accolla a sto personaggio dello scrittore sfigato che andava aiutato e nel giro di 3 mesi ovviamente lo fa diventare, al solito suo, un super personaggio del videogioco, con i superpoteri e tutte le armi migliori. Quello che secondo mia zia era un giovane da aiutare, dopo qualche mese si rifà vivo e per ringraziare mia zia per la fantastica crescita del suo personaggio le manda il suo libro. È là che mia zia mi chiama e mi dice: come facciamo ad aiutare questo ragazzo? Perché questo è un ragazzo giovane, cioè giovane quanto c'era? Mi ha mandato questo libro, sembra pure un bel libro, l'ho letto, un bel libro. Era Anna di Niccolò Amanniti. Mia zia è stata la ghost player, non la ghost writer, ma la ghost player di Niccolò Amanniti, mica pizza e fighi. You got to help me, I can't do it all by myself. You got to help me, baby, I can't do it all by myself. You know if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it, may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby. You know if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else. La storia che vi abbiamo raccontato arriva da quelle serate che Mauro Pescio fa dal vivo a Roma, faceva e tornerà a fare ovviamente quando l'emergenza sarà passata, in cui chiede alle persone di raccontare 4 storie, 3 storie sono vere e 1 è falsa, quelle che vi raccontiamo ovviamente sono solo quelle vere come tradizione di Linee d'Ombra. Questa è una storia bellissima e chissà se magari Niccolò Amanniti in qualche modo ascolterà questa puntata e scoprirà della zia che l'ha aiutato con il suo personaggio del videogioco. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui con i vostri diari dalla quarantena. Linee d'ombra. Ogni giorno qui a Linee d'Ombra da un paio di settimane vi rilasciamo una pillola che arriva dalle vostre giornate. Le vostre giornate a casa cambiate inevitabilmente da questa emergenza, per cui se avete i figli, se avete un lavoro che potete fare da casa oppure no. E le storie che ci arrivano sono davvero come dei piccoli messaggi spersi in questo mare di abitazioni che costellano tutto il nostro paese. E la prossima storia è la storia di Marco. Ceresara. Ciao Matteo, sono le 4 del pomeriggio e oggi è il mio primo, vero e intero giorno di Io resto a casa. In verità è dalla scorsa settimana che lavoro a scartamento ridotto, solo che da oggi le cose che avevo in sospeso si sono concluse e quelle nuove sono diminuite progressivamente fino a sparire, come la luce del giorno quando il sole piano piano ma inesorabilmente finisce per tramontare. E da stamattina eccomi qui, in casa, con l'agenda vuota e il tempo dilatato. Io sono un consulente immobiliare, esercito da solo la mia professione e l'ufficio mi serve solo per ricevere i clienti. Per il resto posso lavorare in ogni parte del mondo, mi bastano il computer e lo smartphone. Ho una certa dimestichezza con lo smart working. Io e la mia compagna, che fa la psicologa, abbiamo un figlio adolescente e spesso mi capita di lavorare da casa nei pomeriggi in cui non ho appuntamenti e lei è in studio con i pazienti. Però questa volta è diverso. Primo, perché è imposto. Secondo, perché è più lungo. Sia io che la mia compagna non abbiamo nessuno che pensi a noi dal punto di vista economico, organizzativo, lavorativo, da 2 o 3 decenni, perciò siamo abituati all'autodisciplina e al senso del dovere. Forse è per questo che questa situazione non ci preoccupa più di tanto. Per fortuna la nostra situazione economica ci permette di fare a meno di lavorare per diverse settimane senza avere problemi. E poi in realtà la mia compagna continua a lavorare, lei fa le sedute con i pazienti in videoconferenza. Per me, che devo mostrare dal vero le case ai miei clienti, invece non è possibile. Come dicevo, questa situazione per il momento non ci pesa, anzi abbiamo più tempo per stare insieme, anche con nostro figlio. Parliamo, ridiamo. Ecco, adesso che lo scrivo me ne accorgo. Ridiamo di più. Sì, siamo più rilassati. In questo momento ti sto scrivendo mentre lei aiuta mio figlio 14enne con i compiti di matematica. Stamattina ho cucinato pranzo e cena, ho riordinato la cucina, sto studiando come investire meglio i nostri soldi visto che per un po' non ne guadagnerò. Più tardi porterò la macchina dal meccanico e invece di farmi riaccompagnare tornerò a piedi. Al mio ritorno mi allenerò qui in casa. Domani inizierò a preparare nuove strategie per acquisire altri clienti quando questa storia sarà finalmente finita. Insomma, cerchiamo di usare questo tempo che ci è stato forzatamente regalato per goderci le cose delle quali normalmente non riusciamo e per migliorarci. In attesa che questi miglioramenti ci permettano, quando tutto sarà finito, di tornare a fare ciò che facevamo prima, meglio magari, ma soprattutto più forti e con un'altra consapevolezza. Well, I won't let you down and I won't mess around. There will be better days will come. Trust in me, shed no tear, dread no scene, show no fear. There will be better days will come. 'Cause I won't let you lay through the dark of the day, and I won't go away, oh no. I will hold you long till the leaves are all gone and the strong winter winds blow. Sinking fast, feel the great shadow cast. There will be better days will come. Let yourself not be blamed, no, no grief, feel no shame. There will be better days will come. Grazie mille a Marco per la sua storia, per il suo diario da quarantena. Se volete mandarci anche il vostro per raccontarci come passate queste giornate e inevitabilmente raccontarci chi siete, lineedombra@radio24.it. Oggi invece chiudiamo la settimana di questa storia seriale che ci sta tenendo compagnia con la sua crudezza, ma anche con la limpidità con cui Anna Maria l'ha raccontata a Mauro Pescio e con cui la stiamo raccontando a voi. È l'ultimo peccato capitale che vi raccontiamo per quanto riguarda le storie seriali, è il peccato capitale della gola. È sorprendente sapere che nel cervello di una persona possa esserci lo spazio per certi ragionamenti e certe derive, ma è esattamente quello che è capitato a me in quei giorni e per molti mesi io sono stata solo ed esclusivamente quello. Uno dice: perché non sali in macchina, sali in autostrada oppure fai le statali dove qui è pieno di tir, certo, vai a 90 all'ora, 90 contro 90 e ti schianti contro un cambio e di te non resta niente. Il mio pensiero è sì, c'è una cosa che avevo pensato, sì. Ma se dopo io sopravvivo invece quello che sta guidando il camion muore? E se dietro di me c'è una mamma con dei bambini in macchina e stanno tornando da scuola e viene addosso a me e muore? Cioè, sarebbe stato assumersi una responsabilità troppo grande. E quindi io non voglio essere la causa della negatività, cioè del male di nessuno. Anche nel caso, ma non hai pensato ai tuoi figli? Sì, ma nel momento in cui io non mi ritengo più niente, cioè io non mi riconosco, non so chi sono, la certezza è staranno tutti meglio senza di me. Fine della trasmissione. Era la mia inadeguatezza, nient'altro. Vedevo solo quello e non prendevo nemmeno lontanamente in considerazione che ci potesse essere una soluzione. Preferivo mollare tutto, lasciarmi andare verso la fine piuttosto che immaginare una rinascita. Poi non c'è niente come la malattia, chiamiamola mentale, no? Che non viene presa in considerazione dalle persone, no? Quando sì. La fase successiva, quando poi ho cominciato a star male, quindi è stato deciso il ricovero, la frase che tutti dicevano: ma cos'hai? Hai una bella casa, un bel marito che ti ama, due figli meravigliosi. Quando ti dicevano queste cose qui, che le cose che diciamo tutti, no, ma dai, ma tirati su. Cosa vuol dire tirati su? Cioè, io dentro di me ho un abisso, sto sprofondando dentro di me giorno dopo giorno, c'è un buco nero che mi ha inghiottito, ma sembra quasi qui, tipo il supplizio di Tantalo, per dire, no? Non vedi la fine? Non vedi la fine? Non vedi la fine? Non vedi la fine? È come se tu precipitassi, scendi. Prima o poi, speravo più prima che poi, che ci fosse l'impatto di tutta questa cosa che sentivo dentro, ma l'impatto in realtà non arrivava. E allora decisi che era meglio stringere i tempi. Il modo che avevo scelto era quello di smettere di mangiare, senza dare troppo nell'occhio. Grazie ad Anna Maria per la storia che continua a raccontarci, grazie a Mauro Pescio che la raccoglie, grazie a tutte le persone che continuano a fare con maggiore sforzo questo programma, perché da casa, perché da remoto, perché dobbiamo fare delle videoconferenze come tutti, eppure il programma va in onda tutti i giorni alle 15 per regalarvi un pochettino di spensieratezza per quanto è possibile, o quantomeno un viaggio da un'altra parte, perché questo fanno le storie. Quindi Anita Panizza, Paolino Corleoni, Mauro Pescio e il nostro Luca Micheli che sceglie le musiche. Qualcuno continua a dire che questa sembra una guerra. Devo dire che per noi che siamo a casa e lavoriamo da casa, o comunque possiamo permetterci di stare a casa, è una guerra decisamente comoda, visto che alla mia età la gente veniva chiamata per andare in guerra, ad andare a uccidere qualcuno che non conosceva e farsi uccidere da qualcuno che non conosceva, magari dall'altra parte delle montagne, dall'altra parte dell'oceano. Ora invece quello che semplicemente ci chiedono è di rimanere a casa. Facciamolo e passerà. State su, mandateci le vostre storie. Ora è il GR e poi noi torniamo lunedì puntualissimi a raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!